In seguito Salomone costruì il suo palazzo, portandolo a termine in 13 anni. Costruì il palazzo della foresta del Libano, lungo 100 cubiti, largo 50 e alto 30, a 3 serie di colonne di cedro con capitelli di cedro sulle colonne. Pure di cedro era il soffitto delle camere che sovrastavano le colonne in numero di 45, 15 per fila. C'erano 3 file di finestre che si trovavano di rimpetto per ben 3 volte. Tutte le porte e i vani erano rettangolari e si trovavano di rimpetto per 3 volte. Fece pure il vestibolo delle colonne, lungo 50 cubiti e largo 30, con un portico anteriore a colonne coperte da una tettoia. Eresse anche il vestibolo del trono dove amministrava la giustizia, detto perciò sala del giudizio. Esso era ricoperto di cedro dal pavimento al soffitto. La sua abitazione privata, situata nell'altro cortile dietro il vestibolo, era costruita allo stesso modo. Simile a questo vestibolo era anche la casa che egli costruì per la figlia del faraone, da lui condotta in sposa. Tutte queste costruzioni erano di pietre scelte, squadrate a misura e tagliate con la sega di dentro e di fuori, dalle fondamenta fino ai cornicioni e dal di fuori fino al cortile maggiore. Anche le fondamenta erano di pietre scelte, pietre enormi, pietre di 10 e di 8 cubiti. Al di sopra c'erano ancora pietre scelte, squadrate a misura e legname di cedro. Il cortile maggiore aveva intorno 3 strati di pietre squadrate e 1 strato di tavole di cedro, come il cortile interno del Tempio del Signore e il vestibolo del palazzo. Il re Salomone mandò a prendere Chiram di Tiro. Questi era figlio di una vedova della tribù di Neftali, però suo padre era di Tiro e lavorava il bronzo. Egli era dotato di abilità, di intelligenza e di perizia nell'eseguire qualsiasi lavoro in bronzo. Venuto presso il re Salomone, eseguì tutti i suoi lavori. Fuse le 2 colonne di bronzo. L'altezza di una colonna era di 18 cubiti, mentre una corda di 12 cubiti ne misurava la circonferenza. Lo spessore del bronzo era di 4 dita, mentre dentro era vuota, così era pure la 2ª colonna. Fece anche 2 capitelli di bronzo fuso da porre in cima alle colonne, alti entrambi 5 cubiti. Fece poi 2 reti per rivestirne i capitelli che si trovavano in cima alle colonne, 1 rete per ciascun capitello. Fece anche, intorno alla rete, 2 file di melagrane per coprire il capitello che si trovava sopra le colonne. Così fece pure per il 2º capitello. Sui capitelli che si trovavano in cima alle colonne v'era un lavoro in forma di loto. Tutto questo nel complesso era alto 4 cubiti e v'erano capitelli sulle 2 colonne anche al di sopra accanto alla sporgenza che era al di là della rete. E le melagrane erano 200 disposte in serie all'intorno sopra il 2º capitello. Innalzò le colonne davanti al vestibolo del Tempio, innalzò la colonna di destra cui diede il nome Iachin e innalzò quella di sinistra che chiamò Boaz. In cima alle colonne v'era un lavoro in forma di loto. Così terminò il lavoro delle colonne. Fece poi il mare in metallo fuso, da un orlo all'altro misurava 10 cubiti. Tutt'intorno era circolare, la sua altezza era di 5 cubiti, mentre una cordicella di 30 cubiti ne misurava la circonferenza. Sotto l'orlo v'era un ornato di colloquintidi, 10 ogni cubito, che formavano un giro intorno al mare. Le colloquintidi erano in 2 ordini, fuse insieme al mare. Questo aveva lo spessore di 1 palmo, e l'orlo come quello di 1 coppa a fior di loto. Conteneva 2000 bat. Poggiava su 12 buoi, di cui 3 guardavano a settentrione, 3 ad occidente, 3 a mezzogiorno e 3 ad oriente. Il mare poggiava su di essi e le loro parti posteriori erano rivolte all'interno. Fece pure 10 basi di bronzo, lunghe 4 cubiti ognuna, larghe altrettanto ed alte 3 cubiti. Questa era la loro forma. Avevano dei telai e dei pannelli fra i telai. Sui pannelli posti tra i telai erano scolpiti leoni, buoi e cherubini, così pure sui telai. Sopra e sotto i leoni e i buoi v'erano motivi a spirale. Ogni base aveva quattro ruote di bronzo, con gli assi anch'essi di bronzo. I suoi quattro piedi avevano delle spallette sotto il bacino e le spallette erano state fuse nella parte interna con ogni motivo a spirale. La sua apertura all'interno della corona e sopra era alta un cubito e mezzo, di forma rotonda, fatta come la conca e fornita di sculture. Invece i suoi pannelli erano quadrati anziché rotondi. Sotto i pannelli c'erano le quattro ruote con i loro assi uniti alla base. L'altezza di ogni ruota era di un cubito e mezzo. La forma era come quella delle ruote di un carro. Gli assi, i quarti, i raggi e i mozzi erano tutti d'un pezzo. Ai quattro angoli di ogni base v'erano quattro spallette che formavano un solo pezzo con la base. In cima alla base v'era un supporto alto mezzo cubito, tutto intorno rotondo. In cima alla base c'erano i suoi manichi e le sue spallette formavano un solo pezzo con essa. Scolpì sulle tavole cherubini, leoni e palme, secondo lo spazio di ciascuna, e in più motivi a spirale all'intorno. In questo modo egli fece le 10 basi con un'unica fusione, un'unica misura e un'unica forma per tutte. Fece poi le 10 conche di bronzo, ognuna delle quali conteneva 40 bat, misurava 4 cubiti e poggiava su una delle 10 basi. Collocò le basi, 5 al lato destro del tempio e 5 a quello sinistro. Invece il mare lo pose al lato destro del tempio, rivolto verso sud-est. Chiram fece anche i vasi per la cenere, le palette e le coppe. Così terminò ogni lavoro di cui il re Salomone lo aveva incaricato per il Tempio del Signore. 2 colonne, le volute dei capitelli che stavano in cima alle 2 colonne, le 2 reti per coprire le 2 volute che stavano in cima alle colonne, le 400 melagrane per le 2 reti, i 2 ordini di melagrane per ciascuna rete destinati a coprire i 2 capitelli sferici in cima alle colonne, le 10 basi e le 10 conche per le basi, il mare unico e i 12 buoi che lo sostenevano, i vasi per la cenere, le palette e le coppe. Tutte queste suppellettili che Chiram aveva fatto al re Salomone per il Tempio del Signore erano di bronzo levigato. Egli le fuse in modelli di argilla nella regione del Giordano tra Succot e Zartan. Salomone sistemò tutte queste suppellettili. A causa della loro grandissima quantità non si calcolò il peso del bronzo. Salomone fece preparare tutte le suppellettili che erano nel Tempio del Signore, l'altare d'oro, la mensa d'oro su cui si ponevano i pani della presentazione, i candelabri in oro fino, 5 a destra e 5 a sinistra davanti alla cella, inoltre i fiori, le lampade e gli smoccolatoi d'oro, le patere, i coltelli, i vassoi, i mortai e gli incensieri d'oro fino. Anche i cardini per i battenti dell'aula erano d'oro. Terminati tutti i lavori che aveva fatto fare per il Tempio del Signore, Salomone portò i sacri donativi di suo padre Davide, cioè l'argento, l'oro e i vasi, deponendoli fra i tesori del Tempio del Signore.